Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Replica. Sono trascorsi 34 anni da quel 26 aprile del 1986 in cui avvenne un'esplosione nella centrale nucleare a pochi chilometri da Chernobyl in Ucraina. A causa dell'incidente l'aria fu pervasa da radioattività in quantità equivalente a circa 500 ordigni come quello sganciato su Hiroshima. E ancora oggi le radiazioni continuano a danneggiare la salute di migliaia di abitanti in Bielorussia, Ucraina e Russia. Secondo le stime che vennero effettuate negli anni, il disastro provocato dall'incidente nella centrale nucleare di Chernobyl provocò conseguenze dal punto di vista economico stimate in circa 200 miliardi di dollari. La miniserie televisiva dedicata a quel disastro ci racconta con grande precisione tutto quel che accadde e un libro che ha ispirato la serie ne ripercorre le tappe. Il titolo è Chernobyl 01-23-40, la storia vera del disastro nucleare che ha sconvolto il mondo. 01-23-40 sono appunto l'una di notte quando si verificò l'incidente. L'autore è lo scrittore Andrew Leatherbarrow e la casa editrice è Salani Editore. Sono lieto di riferire che la situazione a Chernobyl è stabile. E quanto alle radiazioni, pare siano l'equivalente di una radiografia al torace. No, Chernobyl sta bruciando. E ogni atomo di uranio è come un proiettile che penetra tutto ciò che incontra. Metallo, cemento, carne. Chernobyl contiene più di 3 bilioni di questi proiettili. Alcuni dei quali continueranno a esplodere per 50.000 anni. Mi dica come spegnerlo. Qui parliamo di un evento che non si era mai verificato prima sul nostro pianeta. Staccate le linee telefoniche, conteniamo la disinformazione. Che può succedere ai nostri ragazzi? Il dolore è inimmaginabile. Passano da 3 giorni a 3 settimane, poi muori. Lo può vedere, ma non lo può toccare. Ha capito? Che è successo la notte dell'incidente? Lei crede di poter trovare la verità, ma non c'è una verità. Ciò che è successo allora, ciò che è successo dopo, tutto quanto, non è altro che follia. Andrew Leatherbarrow, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Nell'introduzione al suo libro lei sostiene che quello di Chernobyl è stato uno degli eventi più tragici e significativi degli ultimi 100 anni. Eppure sono in pochi ad aver capito davvero cosa sia accaduto. Perché? There are several reasons. Ci sono una serie di ragioni. La principale è che il governo dell'Unione Sovietica decise inizialmente di mentire riguardo a quel che era avvenuto. Tutto ciò accadeva nel contesto della Guerra Fredda e si era in presenza di un fitto strato di segretezza. Nessuno diceva cosa stesse accadendo. Però, poiché Chernobyl fu un evento di enorme portata, non si poté negarne l'esistenza. Alcuni mesi dopo l'accaduto, organizzarono una grande conferenza a Vienna, alla quale vennero invitati i principali esperti di energia nucleare del mondo. E lì dissero a tutti cosa era accaduto, rivelando quel tanto di verità che bastava affinché fossero creduti. Fino a quel punto vi era stato un muro di menzogne sull'incidente. Tutti rimasero sconvolti dalla descrizione dell'accaduto da parte degli scienziati sovietici e prestarono fede alla loro versione, che però tralasciava un elemento fondamentale, Vi erano state delle falle nella progettazione dei reattori che potevano effettivamente esplodere, ed è quel che accadde. La versione fornita dai sovietici fu ritenuta credibile per diversi anni, fino alla caduta dell'Unione Sovietica. A quel punto tutti conoscevano più o meno la storia, ma ciò che era stato detto al tempo non era interamente vero. Poi ci sono un paio di ragioni secondarie. La prima è che molte delle persone che erano presenti al momento dell'incidente morirono in seguito, dopo essersi ammalate. Inoltre, i loro racconti non sempre coincidevano. Occorre aggiungere che la stazione nucleare fu distrutta, come buona parte dei sistemi di rivelazione. Non fu possibile così recuperare tutte le informazioni di cui si aveva bisogno per mettere insieme tutti i pezzi della storia. Infine, nel periodo successivo all'incidente, molte persone furono coinvolte per provare, per così dire, a ripulire la vicenda. E molti racconti risultarono anche esagerati. Le versioni vennero cambiate mentre passavano di bocca in bocca, il che confuse molto la situazione. Nel 2011 lei si è recato a Chernobyl. Quanto ha contato ai fini della sua indagine l'aver visionato di persona il luogo del disastro, seppur a distanza di molti anni? È stato assolutamente fondamentale. E prima che andassi lì, anzi, quando andai lì, ci andai spinto dalla curiosità. Non avevo intenzione di scriverne, ero solo interessato a quel che accadde. Ma vederlo di persona ebbe un tale effetto su di me. Riuscimmo a camminare da soli in questa enorme città abbandonata dove tutto era in rovina. Ebbene, tutto ciò ebbe per me un forte impatto emotivo e cambiò radicalmente la mia prospettiva riguardo all'evento. Mi spinse a scoprire, a indagare su tutto quel che era possibile sapere a riguardo. E quindi iniziai a leggere molti libri, ma sicuramente senza la mia visita a Chernobyl sarei andato avanti con la mia vita. Sicuramente non avrei studiato così a fondo quell'evento o scritto un libro su questo argomento. A quali conclusioni è giunto il suo lavoro di ricerca che si è svolto nell'arco di 5 anni? Beh, ce ne sono più di una. La più importante è che è necessario che si affronti con onestà il tema relativo all'effettivo avanzamento della tecnologia in questo campo. Lo dico perché il problema che ha all'origine dell'esplosione era già conosciuto dall'Unione Sovietica. Fin da quando accesero il reattore per la prima volta, capirono che in determinate condizioni vi sarebbero stati dei problemi, e ciò derivava da come era stato progettato. Ma si decise di non intervenire perché quel modello di impianti nucleari era presente ovunque in Unione Sovietica. Ripararli sarebbe stato costoso, oltre che imbarazzante, poiché non dobbiamo dimenticare che eravamo nel pieno della guerra fredda. Inoltre, sarebbero insorti problemi dal punto di vista dell'efficienza energetica, poiché avrebbero perso molta energia. Dunque, non lo ripararono. Ogni volta che si verifica un incidente aereo, Boeing ed Airbus fanno degli aggiustamenti ai loro aerei così da evitare che quel che è andato storto e ha causato l'incidente non si verifichi di nuovo. Perché, come per ogni cosa, nulla è perfetto e tutto si può migliorare. Ma i sovietici non lo accettarono e nascosero il problema. Il punto fondamentale è che quanti operano in impianti energetici dovrebbero accettare che quando c'è qualcosa che non funziona, occorre correre ai ripari. La seconda cosa che mi è rimasta impressa è che c'era un grande stigma sociale verso coloro che vennero esposti alle radiazioni. Quindi gli abitanti delle città vicine vennero trattati come se avessero la peste e nessuno voleva interagire con loro. Vennero messi ai margini della società e le loro vite furono completamente distrutte. E quindi, oltre ad avere problemi di salute a causa delle radiazioni, molti non riuscivano a trovare lavoro. Da qui l'importanza di sradicare le falsità e promuovere l'educazione riguardo gli effetti delle radiazioni. Dopo il disastro di Chernobyl si è sviluppato un ampio dibattito che in diversi paesi ha condotto ad abbandonare il ricorso all'energia nucleare. Qual è il suo punto di vista sull'argomento, Andrew? Ho opinioni contrastanti al riguardo. L'energia nucleare ha molti punti a favore e altri a sfavore. Il beneficio principale è che è in grado di fornire un'enorme quantità di energia senza utilizzare tanto carburante e non produce quelle emissioni dannose che invece vengono prodotte dagli impianti a carbone. E questo è particolarmente importante perché tutti stanno spingendo verso l'energia rinnovabile. Quindi da questo punto di vista riconosco la sua validità poiché non danneggia l'ambiente. Dall'altro lato, ovviamente, le radiazioni sono molto dannose quando escono dalla stazione nucleare. Quindi il carburante, dopo essere stato utilizzato, è molto, molto dannoso. Ora ci sono dei processi che possono ridurre il suo impatto in una certa misura. E solo l'1% del carburante è etichettato come rifiuto di alto livello, che indica la parte veramente pericolosa. Ma purtroppo, poiché si sono verificati gli incidenti a Chernobyl, a Three Mile Island e a Fukushima nel 2008, lo sviluppo di molti di questi sistemi è andato in stallo e quindi non vi è stato molto progresso negli ultimi 20 o 30 anni nel campo dell'energia nucleare. Molti dei problemi che potevano essere risolti non sono stati risolti. Quindi, venendo al punto se l'energia nucleare sia cosa buona o no, beh, dipende. Ad esempio, la Germania sta abbandonando il nucleare, ma ha dovuto attivare molti impianti a carbone, in pratica recando così più danni all'ambiente di quanto non facessero prima. Quindi la soluzione consiste nell'attivare più investimenti in impianti solari ed eolici, ma ovviamente le tecnologie a batteria non generano abbastanza elettricità, nella maggior parte dei casi. Potrebbe essere una buona idea mantenere l'energia nucleare fino a che queste tecnologie a batteria e a fonti rinnovabili migliorino fino ad ottenere una soluzione di lungo periodo. Bene, grazie Andrew Lederbaro, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi e averci aiutato a ripercorrere quel che accadde 34 anni fa in quel 26 aprile del 1986 in cui avvenne l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, buona serata a tutti, a risentirci la prossima settimana.